Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parliamo di olio. Olio d'oliva extravergine, ovviamente, e questa è una sottolineatura che sicuramente vale la pena di fare. Quindi parleremo di questo olio particolare, questo olio sopraffino, questo olio che sicuramente è un po' su tutte le tavole, l'olio che sicuramente negli ultimi anni ha avuto, per così dire, grossi dibattiti intorno, queste importazioni che arrivano dagli altri paesi mediterranei, questa legge comunitaria che ha tardato tanto ad arrivare per garantire la produzione italiana, questa concorrenza sleale che è ancora sul mercato, perché sicuramente ci sono degli oli che hanno dei prezzi che sono impossibili. Bisognerebbe vedere cosa c'è dentro e da dove arrivano quelle olive e quell'olio. Comunque tanti temi, ma soprattutto è il momento dell'olio nuovo. E quindi olio nuovo, come dicono in Toscana. E noi cosa faremo? Faremo anche un giro attraverso molti frantoi. Andremo a chiedere cosa succede, andiamo a chiedere se è possibile visitarli. Insomma, cominciamo appunto dai frantoi, che sono sempre messi un po' di sparte, perché si parla sempre di olio d'oliva, di produttori, ma i frantoi sono estremamente importanti, così come lo sono i frantoiani italiani, che sono circa 6.000. Ebbene, allora cominciamo questo giro dal presidente dell'Associazione Italiana Frantoi Oleari, Piero Gonnelli, che è un produttore toscano. Buongiorno Gonnelli. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto cominciamo. Com'è quest'annata 2010? Mi dicono di quantità e di qualità, è così? Sì, corrisponde al vero, è un'ottima annata, sia per la qualità che per la quantità. Ci sono zone magari che hanno un po' meno produzione, ma in genere è veramente un'ottima annata. Era un pezzo che non vedevamo un'annata come questa. Senta, venire al frantoio, ecco, io mi metto nei piedi di un consumatore, vengo al frantoio, vado a visitare i frantoi, cosa trovo di vantaggioso di vedere la produzione come avviene, il prezzo e cos'altro? È un cosiddetto tuffo nell'olio, nel senso che venendo in un frantoio uno si rende conto di come si fa questo prodotto, sicuramente si risparmia anche sul prezzo e sicuramente si ottiene un grande prodotto, il migliore che il frantoiano, che è molto orgoglioso di dare il meglio della sua produzione, e li metterà a disposizione. Quindi credo che sia del tempo speso veramente bene. Bene, rimanga con noi Gonnelli, abbiamo con noi un giornalista che non ha mai peli sulla lingua e ultimamente sull'inserto di Libero Gusto che dirige ha scritto un articolo che è tempo di mettere l'olio nel lume, un articolo che sicuramente è molto provocatorio. E con noi Carlo Cambi, buongiorno Carlo. Ciao Davide, buongiorno a tutti i gastronauti. Beh, mi sembra che le conclusioni del tuo articolo siano, beh, forse vale la pena per molti produttori, per molti anche frantoiani, di smettere di raccogliere le olive e di vendere gli ulivi agli americani, è così? Beh, questo in Puglia è sicuramente vero, tant'è vero che la regione ha dovuto fare una legge apposta per evitare che le piante secolari venissero svendute. Sai, con i prezzi attuali delle olive e soprattutto con la pessima informazione che si fa sull'extravergine, il futuro per questo comparto è davvero un futuro nero. Gonnelli, ma è vero così poco remunerativo il prezzo dell'olio oggi, dell'olio extravergine? È verissimo, purtroppo non riusciamo a coprire i costi di produzione, non dico a guadagnare, ma a coprire i costi di produzione. Ecco, allora Cambi, secondo te cosa bisognerebbe fare? Beh, due cose. Primo, rendere l'etichettatura assolutamente esplicita ed evitare queste truffe, perché sono truffe vere e proprie, con scritto 100% italiano, spremuto a freddo, tutte edizioni che non significano nulla. Secondo me bisogna che DOP e IGP coprano grandissima parte della produzione nazionale e che agli italiani si rispieghi che un olio d'oliva sotto i 3 euro è un olio che non può essere consumato con fiducia. Bisogna ridare il senso della complessità dell'olio extravergine, sia dal punto di vista della salute, degli apporti nutrizionali, delle straordinarie capacità di esaltare i cibi e la possibilità ai frantoiani e ai produttori olive di spiegare il valore del loro prodotto. Ultima cosa, e poi mi taccio, Davide, ti ringrazio dello spazio che mi dai, bisogna far sì che fin dalle mense scolastiche i bambini vengano abituati al vero sapore dell'extravergine, che è un sapore piccante, che è un sapore complesso, che è un marcatore della nostra identità culturale e gastronomica, facendo intendere che se muore l'olivicoltura muore il paesaggio italiano, e questo è il più grave danno che si potrebbe creare al nostro paese. Gonnelli, ma la legge del 2009, la legge comunitaria del 2009, non garantisce l'olio extravergine italiano? Sì, lo scopo della legge è quello di garantirlo. Non è ancora in pieno, non ha dato la sua piena efficacia, perché tutto il meccanismo dei controlli sta partendo adesso. Ci sono ancora degli aggiustamenti da fare, ma siamo tutti molto fiduciosi. Pensiamo che nell'arco di un 6-7 mesi potremmo arrivare veramente ad avere un'ottima situazione di controllo e quindi una tranquillità per i consumatori. Quello che condivido di quello che ha detto il giornalista è quasi tutto. Molte di queste idee sono state anche dall'AIFO portate avanti in questi anni e le stiamo portando avanti ancora adesso, perché ancora non si sono concretizzate. Mi permetto solo di fare un'osservazione che con 3 euro in uno scaffale non si può comprare olio buono, bisogna salire almeno a 5 euro, perché i 3 euro sono la soglia di sopravvivenza dell'olivicoltore. Poi va confezionato, ci va messo il guadagno del rivenditore, quindi sotto i 5 euro per me non esiste olio buono. Mi tolga una curiosità: quanto costa al chilo oggi sul mercato un olio d'oliva extravergine all'ingrosso? All'ingrosso, allora, sulla produzione, diciamo 2009, i prezzi sono intorno a 2,50 euro, le parlo di prezzo nazionale, di prodotto, certo, nazionale. Certo. 2,50 euro, la nuova produzione è sui 3,20 euro. Aggiungiamo ai 3,20 euro la bottiglia e tutto quello che ne consegue, a quanto si può arrivare come minimo di sussistenza? Il prezzo al consumo sullo scaffale? Sì. Ma secondo me non possiamo scendere sotto i 4,60 euro, 4,70 euro. Ecco, ma si arriverà prima o poi a mettere in bottiglia da dove arrivano le olive? Ma questo la legge già lo prevede, nel senso che per quanto riguarda l'olio italiano deve essere per forza prodotto con olive coltivate e lavorate in Italia. Per quanto riguarda DOP e IGP è un legame strettissimo, ancora più stretto al territorio, quindi ci stiamo incamminando su questa strada. Ripeto, è un problema di mettere a punto, rodare bene questa nuova legge, poi che gli enti di controllo facciano tutti i controlli necessari, e noi ci auguriamo che le ditte che frodano non vengano multate, ma vengano fatte chiudere, perché se non si cambia registro qui non ne usciamo. Cambi, ma tutti questi sequestri che avvengono continuamente, a cui è data poca comunicazione, secondo te non varrebbe veramente la pena di portarli all'eccesso, cioè di metterli tutti assieme e di cominciare a pubblicare paginate su quello che avviene nel mondo dell'olio? Assolutamente sì, Davide, ma ti dico di più, questa cosa sta contagiando un sacco di altri prodotti importanti del Made in Italy. L'altro giorno ero in autostrada e ho visto negli scaffali dell'autogrill dei vini di OCG senza fascetta, imbottigliati non si sa bene dove e come. Cioè, è inutile che continuiamo a fare tanti controlli in campagna e poi non si fanno controlli sulla distribuzione. I sequestri vanno fatti direttamente al supermercato con spettacolarizzazione. Quanto ai prezzi, io nell'articolo che tu gentilmente citavi ho dato una scaletta. Secondo me un olio meridionale non può costare meno di 6 euro, un olio del centro Italia non può costare meno di 10 euro, e un olio del nord Italia, parlo di Liguria, Garda eccetera eccetera, non può costare meno di 13 euro. Questi sono i prezzi di riferimento. Bene, grazie a Carlo Cambi e a Piero Gonnelli. il gastronauta. Di nuovo buon sabato a tutti. Ebbene, chi già era collegato con noi ha sentito che stiamo parlando di olio extravergine, stiamo parlando di frantoi, di Giro d'Italia dei frantoi. Ebbene, chi non era invece in ascolto, ora lo introduco perché cominciamo a far visita a un paio di frantoi in zone importanti per la produzione dell'olio in Italia e sentiamo un po' come sta andando sia la raccolta delle olive e sia anche come stanno andando i prezzi, perché sono sempre un problema molto importante per, come abbiamo già detto, per i produttori di olio e per i frantoiani in particolare. Bene, andiamo in questo momento a Foggia, in provincia di Foggia, a Torre Maggiore, in Puglia. Puglia, si sa, è una regione vocata all'olivo, grandissima produttrice di olio, credo che sia forse la prima in Europa, se non la prima ai primissimi posti. Andiamo nel frantoio Graco, andiamo da Sabino Angeloro. Buongiorno Angeloro. Salve, buongiorno. Volevo chiederle, Angeloro, come sta andando la raccolta? Si dice che la qualità e la quantità quest'anno siano sicuramente di livello eccellente. È così anche in Puglia? Allora, da noi la quantità assolutamente no, noi non ce l'abbiamo. Quest'anno ci abbiamo circa un 30-40% in meno sicuramente. Ecco, quindi per motivi meteorologici? Sì. Nel periodo della fioritura purtroppo abbiamo avuto dei grossi problemi, delle gelate, quindi le piante ne hanno sofferto e abbiamo una raccolta molto, ma molto inferiore a quella della media normale, insomma, ecco. Senti, ricordo anni fa che un'annata di gelata ha distrutto molti olivi, proprio le ha decapitati. Può succedere anche quest'anno? Può succedere tutti gli anni, perché se le gelate sono forti e prolungate, assolutamente sì, possono accadere. Quest'anno però malattie non ci sono, la famosa mosca non c'è quest'anno? No, diciamo quest'anno il prodotto sicuramente di gran lunga migliore, abbiamo avuto l'acqua nei tempi giusti, anzi forse anche un po' troppa, si pensa che venga fuori un buon prodotto, almeno dalla lavorazione, le prime lavorazioni, il prodotto è eccezionale, insomma. Bene, sentiamo, rimanga con noi, sentiamo in Liguria invece cosa è successo e cosa sta succedendo. Andiamo nel frantoio storico di Sant'Agata in Oneglia da Antonio Mela. Buongiorno Mela. Buongiorno a lei. Ha sentito il suo collega pugliese che ci ha detto, sì, appunto, ci ha, sì, parlato di una gelata e di riduzione della quantità. Da voi com'è la situazione? Ma da noi quest'anno anche la quantità è inferiore. L'anno scorso abbiamo avuto un'annata eccezionale. E quest'anno siamo sicuramente un 30% in meno, forse anche 40%, bisogna vedere l'evolversi della situazione, perché purtroppo abbiamo avuto anche un attacco di mosca terribile e quindi adesso è bene che quelle non buone caschino per poter fare l'olio migliore, diciamo. L'olio migliore si farà dal 20 di novembre fino al 15 di gennaio. Ecco, perché in Liguria diciamo che la raccolta è ritardata rispetto a molte altre regioni italiane. Sì, è un pochino più ritardata, però in questi ultimi anni anche noi abbiamo anticipato, abbiamo capito che se l'olio ligure ha anche un pochino di frutto in più non guasta, visto che è un olio dolce. Angeloro, cosa può vedere un consumatore che viene nel vostro frantoio? Può vedere la produzione, può vedere come avviene, magari anche in maniera didattica? Assolutamente sì, assolutamente. Noi spesso vengono dei gruppi, si è fatto anche scuola, vengono anche scuole elementari, medie superiori, quindi diciamo da noi il frantoio e non è sempre frequentato, ma abbastanza frequentato, comunque viene visitato, insomma, ecco. Voi producete DOP Daunia, se non erro? Sì, noi facciamo anche la DOP, facciamo varie, diciamo, facciamo il classico, facciamo il denocciolato, insomma. Ecco, le cultivar, perché vorrei sottolineare ai nostri radioascoltatori che l'Italia è un paese ricco di cultivar, sono circa 400 più o meno. Volevo sapere, le cultivar vostre che danno frutto alla Daunia DOP, quali sono? La nostra zona tipica, Torre Maggiore, è la peranzana, che è una pianta che è stata portata qui dai D'Angiò, almeno così si dice, coltivata, diciamo poi portata avanti da monaci benedettini, è una pianta molto antica che viene da una regione della Francia, dalla Provenza, ed è una pianta che ha attecchito molto bene qui, esiste solo nella nostra zona, una pianta, un olivo nobile, molto richiesto soprattutto dai toscani, è molto richiesto nelle zone dell'Emilia, un po' dappertutto, è un prodotto che viene preso qua, insomma. Originariamente era la provenzale? Provenzale è un'altra cosa, provenzana è un'altra, si fa molta fatica a distinguere, però sono simili ma non è la stessa cosa. Bene, chiediamo a Mela, che quella è zona di Taggiasca, quindi credo che non ci siano dubbi, vero Mela? Sì, la nostra, specialmente la zona della nostra provincia di Imperia è tutta Taggiasca la Taggiasca è anche un'ottima oliva da tavola, lei sa che è molto richiesta anche in cucina dagli chef, quindi una parte vanno sicuramente in salamoia per poi fare per poi venderle direttamente o in salamoia o snocciolate. Io recentemente ho assaggiato anche una marmellata di olive taggiasche, quindi certo, posso dire che è abbastanza così, possono fare abbastanza cose con questa oliva. Anche noi facciamo due o tre tipi di marmellata con l'oliva taggiasca. Ecco, bene, benissimo. Quindi, ecco, con cosa viene diciamo servita? Con formaggi oppure qualcuno la mangia anche a merenda o a colazione? Ma soprattutto con formaggi. Poi può essere anche in certi casi contorno di bolliti. Quindi sicuramente si presta molto bene, forse anche per certi pesci potrebbe andare bene. Bene, Angeloro, i prezzi quest'anno come sono? Sono no comment, siamo messi male. Il consumatore, ci sono molti consumatori in ascolto, i quali la cosa che importa di più per un consumatore, oltre alla qualità ovviamente, è il prezzo, specialmente in tempi come questi. Noi qua si sta soffrendo moltissimo perché sui prezzi ormai sta succedendo di tutto, purtroppo anche il consumatore è sbandato, però è chiaro che un prodotto di qualità, vuoi non vuoi, oggi costa molto. Ma ci dia un prezzo molto indicativo? Ma diciamo, noi siamo intorno, oggi stiamo vendendo qui, diciamo, per quanto riguarda forniture direttamente al frantoio, non in bottiglia, in lattina, a 6,50 euro al litro, il classico. Per quanto riguarda il denocciolato siamo a 42 euro la lattina, 8,50 euro circa. Mela, invece in Liguria, nella zona appunto Taggiasca, cosa succede sui prezzi? Qui noi abbiamo i prezzi più alti per una serie di cose, quella prima di tutto il raccolto, diciamo, lì siamo a terrazze, quindi da noi le olive quest'anno si aggirano sui 120 euro a quintale, e sono ancora poco, perché i contadini non riescono a andare avanti, perché è un discorso poi che si combina col territorio. Se vogliamo il territorio a posto, bisogna che le campagne siano coltivate, anche se ultimamente, grazie anche alla DOP, c'è stata di nuovo una crescita, però la situazione è alquanto difficile, anche perché poi in giro per i supermercati ci sono oli che non costano niente, a 2,90 euro, 3 euro. Questo è un refrain di tutti, addirittura dicevo prima, ho sentito un collega, Carlo Cambi, che ha scritto un articolo dove dice che molti diciamo olivicoltori sono decisi a vendere le piante negli Stati Uniti per bellezza, diciamo per arredamento, piuttosto che continuare a fare questo mestiere, perché questo mestiere non rende. Quindi mi sembra che sia un pianto generale anche giusto, perché si vede questa concorrenza che sicuramente leale non è. Bene, grazie a Sabino Angeloro del frantoio Graco a Torre Maggiore in provincia di Foggia e a Antonio Mela del frantoio Sant'Agata in Oneglia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di olio. Abbiamo sentito cosa succede in alcuni frantoi, in Liguria, in Toscana, in Puglia. Ebbene, continuiamo questo viaggio nell'olio, ma andiamo ad affrontare un argomento, secondo me, che è giusto che sia affrontato, che di solito viene così abbozzato, perché l'olio sicuramente ha spessissimo dei grandissimi scandali che molte volte vengono tenuti nei cassetti, e credo che sia uno dei prodotti forse più taroccati e più adulterati che ci siano. Quindi è giusto qualche volta portare anche alla ribalta cosa succede nel mondo, in particolar modo negli Stati Uniti. Allora ho con noi Enrico Cinotti, che è un giornalista del Salvagente, che tempo fa ha scritto un articolo, anzi ha riportato, più che scritto un articolo, ha riportato ciò che succedeva negli Stati Uniti. Quindi un reportage, diciamo, assolutamente leale, onesto, di giornali americani, che ha di un test dell'Università della California che accusava l'olio italiano, ma non solo l'olio italiano, anche 10 californiani e 9 importati, in larga parte italiani ma anche spagnoli, che erano etichettati come extravergini e venduti sugli scaffali dei supermercati. Bene, tra questo ci sono nomi eccellenti italiani, nomi di marchi famosi, di aziende famose, di aziende diciamo importanti per quanto riguarda l'olio. Ma la cosa, secondo me, è abbastanza importante è che in America si stanno prevedendo class action contro i produttori di olio, appunto, per questo tipo di, se vogliamo, di truffa in commercio. Allora, buongiorno a Enrico Cinotti. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Cinotti, volevo chiederti questo, ma c'è stato un seguito, avete avuto così delle informazioni in seguito a quanto tu avevi riportato di quello che sta succedendo negli Stati Uniti? Allora, da quello che noi sappiamo, sicuramente diciamo i vari studi legali sono all'opera per portare avanti questa class action, che di fatto, diciamo così, è sostenuta da un dato poi abbastanza naturale, cioè partendo appunto dai dati dell'Olive Center dell'Università di California a cui tu facevi riferimento, questi oli extravergine sono risultati esserlo di nome ma non di fatto, per cui è possibile che i consumatori possano aver pagato, diciamo così, un prezzo più elevato per un prodotto che è stato etichettato in maniera, diciamo, non conforme con quelle che sono poi le regole internazionali, che ci ricordano che l'olio extravergine di oliva non deve avere difetti, deve avere una bassissima acidità e soprattutto non deve, diciamo così, al palato, come dire, restituirci quell'odore un po' di rancido, di riscaldato, che è sintomo di una cattiva fermentazione, di ossidazione, oppure semplicemente del fatto che è stato sottoposto a dei trattamenti, seppur blandi, di sofisticazione. Bene, ci sono i famosi 5 difetti, ma ora voglio lasciare la parola al presidente dell'associazione Mastri Oleari, Flavio Zaramella, che da anni, diciamo, punta il dito contro adulterazioni, sofisticazioni, quindi è stato sempre uno che ha accusato quello che succedeva sul mercato. Ora, Zaramella, io non voglio così allargare questa polemica, perché è in atto, ci sono questi nomi famosi e così avranno dei problemi ovviamente con gli studi legali dei consumatori, però voglio chiederti questo, in tutta tranquillità. Ma questi studi dell'Università di California a altri che mettono in dubbio con dei panel test l'olio come extravergine, classificato extravergine, possono essere contestati? Sì, possono essere contestati in una maniera semplice, che sono le norme negli Stati Uniti, che sono delle norme molto blande. Per esempio, gli Stati Uniti non accettano le norme del Consiglio Olicolo Internazionale, non accettano assolutamente le norme europee che invece offrono un minimo di garanzia. Tanto per fare un esempio, se un produttore spedisce un olio rancido negli Stati Uniti è regolare, perché non è previsto il rancido come un difetto. Le norme tecniche aggiunte al fatto che non esiste tutela sulle denominazioni di origine e quant'altro, è chiaro che le truffe ci sono di ogni ordine e grado negli Stati Uniti. Ecco, ma volevo chiederti questo. Tu hai detto che sono addirittura più blande. Se qui addirittura sono stati messi sotto accusa questi oli, vuol dire che veramente erano terrificanti, perché se sono più blande che da noi, addirittura lì le hanno messi in discussione. Ma sono così terrificanti che noi che siamo nel settore, quando parliamo degli Stati Uniti, salvo poca eccezione, quando contestiamo i consumatori a cui non piace l'olio di oliva, diciamo, certo, sono abituati soltanto a sentire oli rancidi, per cui è chiaro che questo prodotto non piace. Non ci siamo intesi. L'olio regolare negli Stati Uniti è veramente una rarità. Beh, appunto per questo. Allora, se trovare un olio regolare è assolutamente difficile, se vengono messi sotto accusa addirittura da un posto, da una nazione dove i controlli sono blandi, figuriamoci, ma cosa c'è dentro questi oli? Ma dentro questi oli ci sono, quando va bene, degli oli lampanti che sono stati deodorati, ma soprattutto c'è una miscela di oli di oliva, in particolare olio di colza. Quindi robaccia, insomma. No, sono vere e proprie sofisticazioni più che normali truffe. Bene, però io credo che ne vada anche del nome italiano, perché io vedo che ci sono un sacco di aziende italiane, diciamo, che sono sotto accusa da questi test, quindi sicuramente anche l'olio italiano negli Stati Uniti non è che ne uscirà molto bene. Beh, qui dobbiamo dire una cosa, gli oli falsi italiani, aziende italiane che spacciano i loro oli italiani quando invece non sono affatto italiani. Ecco, questo allora cominciamo cominciamo a porre. Esiste anche un problema di trademark, come si usa dire, perché le nostre, per esempio, le nostre certificazioni e le nostre denominazioni di origine negli Stati Uniti non sono assolutamente protette, per esempio. Quindi addirittura diciamo, questo, come posso dire, queste maglie molto larghe. Ma volevo chiedere a Cinotti, ma secondo te in Italia queste maglie sono strette o anche in Italia sono molto larghe di controlli e quindi di extravergine che non lo sono, che girano per gli scaffali di molti negozi, di molti supermercati, di molte enoteche, non so, di molto altro, insomma? Ma facciamo, diciamo, una distinzione che diciamo è stata poi messa anche in evidenza. L'eccellenza italiana, le DOP in particolare, hanno, come dire, insomma, un sistema di controlli anche organolettici molto più diciamo così controllati. Basta far riferimento al fatto che c'è bisogno appunto di un panel esterno e non semplicemente, diciamo, di un panel che può essere, come dire, insomma, no, appartenente o comunque direttamente collegabile all'azienda. Detto questo, vorrei far riferimento al fatto che quando si parlava prima di oli deodorati e del fatto che in etichetta molto spesso noi andiamo a leggere oli ottenuti da miscela di mi ripeto, oli comunitari, è anche vero che non tutto quello che brilla come Made in Italy in realtà in bottiglia è ottenuto e come dire, insomma, raccolto e spremuto in Italia. C'è tantissima produzione dalla Spagna alla Grecia con dei meccanismi di appunto molitura e di raccolta completamente diversi da noi. Diciamo, la miriade di frantoi italiani non ha, come dire, insomma, è uguale ad esempio in Spagna, laddove ci sono poche, si contano sulle dita delle mani, raffinerie vere, industriali, in cui le olive vengono stoccate in, chi ha avuto modo di vederlo, insomma, in capannoni grandi quanto campi da calcio, e laddove, insomma, se non viene diciamo, se non viene spremuta nei tempi giusti, la fermentazione va avanti, l'acidità aumenta, quel senso, quell'odore forte deve per forza essere deodorato, e poi quelle miscele finiscono probabilmente per essere addolcite, usiamo questo termine, con l'olio italiano vero. Bene. Quindi lì, e concludo, lì diciamo la grande battaglia anche da un punto di vista di controlli e da un punto di vista di standard internazionale è capire se oggi, diciamo, l'industria è in grado di svelare se un olio è deodorato oppure no. Cioè, se un olio extravergine oliva che non può essere, diciamo, sottoposto a determinati meccanismi, è possibile, analizzandolo, capire se è stato deodorato o meno. I sistemi iniziano ad esserci. Bene, Zaramella, lei una volta mi ha detto una frase che mi è rimasta abbastanza impressa, ed è questa, che mentre diciamo i produttori e la scienza diciamo quella universitaria, quella legale, scopre delle sofisticazioni, immediatamente i sofisticatori sono già avanti e corrono già avanti, è ancora così? Beh, è molto peggio, qui vado sul pesante, le deodoranti sono praticamente diventate illegali da quando l'Unione Europea nella definizione di olio vergine ha eliminato che non si può avere trattamenti termici, quindi li ha messi, siccome la deodorazione avviene attraverso un trattamento termico, quindi è una truffa che è stata legalizzata dalla stessa Unione Europea. Su questo sono disponibile a dimostrarlo e a prendermi tutte le denunce del caso. Quindi diciamo che siamo veramente messi male, dobbiamo stare molto attenti quindi a che cosa consumiamo, però penso che il problema esista fuori dell'Italia, come abbiamo sentito negli Stati Uniti e in altri paesi. In Italia, bene o male, di olio straordinario ce n'è ancora tanto. Certo, ci sono le eccezioni che confermano la regola della qualità. Il gastronauta. Prima di riprendere a parlare ovviamente di olio con i nostri ospiti, ricordo che lunedì 8 novembre il gruppo 24 ore assieme alle riviste Bar Giornale, Pianeta Hotel, Ristoranti, Ristorazione Collettiva presenterà una giornata su le nuove sfide competitive per bar, alberghi, ristoranti e collettività nella sede appunto di Via Monterosa 91. Inoltre durante la giornata alle 5:30 avrà luogo la presentazione dell'edizione 2011 della guida ai ristoranti del Sole 24 ore. Quindi ora, dopo aver dato questo importante annuncio, perché è un argomento credo che interessi moltissimi, moltissimi operatori, nonché anche moltissimi sicuramente attenti a questi fenomeni, riprendiamo a parlare di olio, che fa parte appunto sicuramente di alberghi, ristoranti e della collettività. Riprendiamo a parlarne con due ospiti, due frantoie in cui andremo e chiederemo appunto qual è la situazione quest'anno dell'olio e quali sono le manifestazioni appunto in corso. Cominciamo da Brisighella. Ebbene, Brisighella in Romagna, la mia Romagna, ebbene pochi sanno che in questa terra nasce un grandissimo olio, che è il Brisighello che è stata la prima DOP italiana. E allora parliamone con Franco Spada, presidente del Consorzio di tutela dell'olio extravergine, appunto DOP di Brisighella. Spada, buongiorno, e le chiedo subito, come va? Come va l'annata? Abbiamo sentito in altre parti che la quantità è piuttosto scarsa, perché il maltempo sicuramente ha creato non pochi problemi. Buongiorno a lei, ma anche da noi siamo per quelle zone dove il maltempo del dicembre dell'anno scorso ci ha dato qualche problemi, in generale, perché finalmente quest'anno abbiamo avuto, se c'era bisogno, la controprova che le nostre varietà autoctone storiche hanno tenuto il brodo, come si dice da noi, e quindi abbiamo una... Con i cappelletti o senza? No, abbiamo dei cappelletti perché abbiamo un'annata eccellente, stiamo facendo i primi assaggi, il frantoio l'abbiamo appena aperto e diciamo che la qualità è decisamente ottima. Purtroppo ci manca il 40% di produzione, ma non della nostrana di Brisighella, che è la nostra DOP, che è il nostro Brisighello. Ci manca quella produzione di quelle varietà, diciamo, che negli anni 70 sono arrivate, tipo Leccino, tipo Frantoio, che purtroppo nel nostro ambiente, come volevosi dimostrare, non ce la fanno sopravvivere ai meno 14-15 gradi. Insomma, vi manca lo zoccolo duro, per il fatturato. Lo zoccolo duro ha tenuto come qualità e come, diciamo, come complessità e diciamo di fatturato. sicuramente abbiamo un calo del 40% della produzione. Bene, allora andiamo anche in Umbria, altra regione vocata all'oliva e quindi all'olio d'oliva extravergine. Andiamo dal direttore del frantoio di Spello, Iuri Amantini. Anche lui chiedo, annata, com'è l'annata, qualità e quantità, Amantini? Sì, buongiorno, colgo l'occasione anche per salutare il mio collega Franco Spada di Brisighella. Bene. La nostra campagna olearia sta ormai, ha preso piede, è stato riscontrato nel complesso un decremento produttivo rispetto alla scorsa stagione, che comporta un ritorno a livelli normali dopo la significativa crescita dello scorso anno, che è stata un'annata straordinaria. La nostra cooperativa, formata da 500 soci, tutti della zona di Spello e zone limitrofe del Monte Subasio, ha molito a tutt'oggi circa 4.000 quintali di olive e la produzione è molto simile per quanto riguarda la qualità rispetto all'anno scorso. La fase di ingrossamento delle drupe è stata abbastanza buona e, sebbene la mancanza di precipitazioni abbia creato qualche problema, accelerando notevolmente l'invagliatura dell'oliva, soprattutto per la varietà a maturazione tardiva, quale il nostro Moraiolo, che è la varietà principale di questo areale. Ha comportato un forte anticipo della raccolta, che ha avuto inizio intorno ai primi del mese di ottobre. Bene. In questi giorni, diciamo, stiamo raggiungendo il picco massimo della raccolta. Bene, io voglio chiedere sia a Spada che a Amantini. Prima Spada, voglio chiedere così per rassicurare i consumatori. Ma Spada, ma i prezzi saliranno? Intanto un saluto da Amantini, anche da parte mia. No, non saliranno, si manterranno quelli dell'anno scorso. E quali erano quelli dell'anno scorso, Spada? Diciamo che noi siamo per la DOP, vado a litro per capirci, sì, sui 28 euro a litro, la DOP, e sui 18 euro a litro per l'extravergine normale, diciamo. Ma io le voglio chiedere una cosa, 28 euro, ma sì, come si fa allora ad acquistare un extravergine a 3 euro? Ma io non so come si faccia, dico che i costi di un olio di grande quantità italiano comunque non ha un costo per il produttore che è sui 4 euro, quindi come fa a venderlo, come fa a essere in commercio un olio a meno di 3 euro? Quindi non lo so, credo che ci siano altri che lo possano spiegare meglio di me. Io mi capito, auguro solo che i controlli siano controlli sempre più forti. Noi come consorzio, nel nostro piccolo, io adesso sono a Roma a un corso per agenti vigilatori, mi auguro che in futuro ci siano sempre più controlli. Insomma, i produttori vanno salvaguardati di più, i produttori veri, se no le olive rimangono là. Ma non dico Brisighella siamo una nicchia, siamo una piccola quantità, abbiamo un nostro mercato. Non è un problema, ma a livello generale io credo, certo, che insomma il problema ci sia. Amantini, e in Umbria i prezzi? Ma diciamo in Umbria la quantità che gli umbri certificano, diciamo che ormai è stabile con l'olio DOP Umbria, che è un mercato, diciamo, possiamo dire ormai consolidato e che apprezza il prodotto. I prezzi per quanto riguarda la nostra cooperativa e la nostra azienda si aggirano intorno ai 15-16 euro al litro per una DOP Colli Assisi Spoleto, molto inferiori rispetto al collega di Brisighella. Bene, grazie a Amantini e grazie a Spada. Ricordo per Amantini che chi volesse così seguire le manifestazioni in Umbria, c'è un'organizzazione www.frantoiaperti.net che dà tutte le indicazioni degli eventi che avvengono, e sono tanti e numerosi. Bene, abbiamo chiuso questo giro dell'olio d'oliva extravergine, abbastanza così discusso, secondo me abbastanza però interessante. E allora io vi auguro un buon weekend, ringrazio Anita Panizza e Giorgio De Luca e vi do appuntamento a domani con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buon weekend a tutti.